Natale, grazie per la gioia e la bontà che fiocca già su di noi. Non è Natale però, cioè, no, però quasi. Si entra in punta di piedi. Finalmente, era ora, dopo tutti questi giorni. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K, un saluto da Drago, saluto da Pusci-Gé, dal mondo di Pusci-Gé. Il mondo in cui si entra in punta di piedi e ci si lascia andare, perché così il venerdì entra nel clima giusto del venerdì, insomma. Sì, potete vedere weekend, no, tutte queste cose che volano, vedete, ci sono gli animaletti che volano, no, corma, non ci sono, Drago, con no, le antenne. Non devi fumare prima della trasmissione, ci sono, perché dopo fai, dici queste cose qui, invece i devi dire le notizie dei bambini nel mondo dell'infantilismo. Nessun carrubone. No, che carrubone, Drago. Carrubone volante. Il mondo dei Pusci-Gé si è esaurito, no, perché vabbè, parliamo allora, alla durata del popper. Sì, capito? Effettivamente siamo tornati già di nuovo in questa quotidianità squallida. Però sì, parliamo di Natale, che prima tu dicevi Natale, io dico Natale, no, però Natale. Insomma, Natale, è quasi 15, Natale, 15 dicembre alle 21 ci sarà questa recita di Chiedo Asilo, quindi potete prenotare mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it, scrivete come oggetto recita di Natale, però, e specificate però in quanti siete e lasciate sì, un vostro recapito. Stavolta i bambini possono venire, sì, quindi, sì, però direi che qui vorremmo un po' più di partecipazione dal pubblico. Audience participation. Allora, a parte la storia dei regali di Natale da portare al bambino Alberto, quelli su Facebook sono fatti loro, ecco, fate un po' secondo vostra coscienza. Però siete invitati a comporre una filastrocca di Natale, una poesiola, e a mandarcela adesso via mail intanto, perché poi noi scegliamo le migliori tre, anzi verranno scelte da Carmelo Lauricella in persona, e questi tre vincitori verranno invitati sul palco a recitarle a memoria, anche, mi raccomando, che non la portatevi il foglietto, no, però attenzione, all'asilo a memoria, a memoria, sì, a memoria. E soprattutto però il problema è che se uno manda la filastrocca e abita a Canicattì, puoi farlo venire qui per leggere la poesia, secondo me un po' difficile, quindi magari quelle le legge il bambino Alberto, non lo so, potrebbe essere un'idea, boh, vediamo. Comunque la con cosa noi ci sarà, scrivete, il bambino Alberto appunto, che magari leggerà appunto tutte queste filastrocche mettiamo, che arrivano da Canicattì, esatto. Ce n'è già arrivata una, guarda, da Canicattì è arrivata qua in diretta, esatto. Ecco, poi ci sarà anche Rudolf, la renna dal naso rosso, o dal naso rosso della sì, potremmo anche far leggere la poesia dal naso rosso, cioè il naso rosso legge la poesia. Vabbè, ci saranno tantissime sorprese, ci sarà Laura Faggin in persona sul palco a portare tutto quanto, sì. cosa porta, non lo so, vabbè, vediamo. Comunque mi raccomando, 15 dicembre partecipate numerosi alla recita di Chiedo Asilo. Mario Monti, Mario Monti. Ciao bambino Alberto. Dappertutto parlano di Mario Monti. Mario Monti, Mio papà mio papà ha perfino ordinato una pizza Mario Monti. Ma no, ma mi sembra una cosa normale. Ma è la pizza Mari e Monti con funghi e gamberetti, qualcosa del genere. Ma non si può dire queste cose. Ma dai, la pizza Mario Monti. Cosa ridi? Non fa ridere. Sua la battuta. Lo so, appunto, proprio per quello non fa ridere, no? È mia la battuta, l'ha detta lui, ma come non lo so. Mia, comunque, non di cosa stiamo parlando? Allora Mario Monti è Mario Monti. Comunque, quando succedono queste cose importanti, che in TV non si parla altro che di politiche, a me viene una tristezza infinita. Lo so. Succedeva anche a noi da piccoli. Io ricordo ancora con orrore l'elezione a presidente della Repubblica di Giovanni Leone. Giovanni Leone. Si parla di quasi Giovanni 40 Leone. Anni fa. Lui è morto. Mio nonno Pinin ha guardato. Anche tuo nonno Pinin, anche lui. Anche lui. È morto. Quando era vivo, mio nonno Pini guardava sempre la televisione, anche la politica alla televisione, quindi si era guardato tutta la votazione dall'inizio alla fine, De Martino, Leone, sei De Martino, Leone, tipo 6 ore, giusto, io che volevo vedere la TV dei ragazzi e lui che non mi stava nemmeno a sentire, fumava le nazionali, beveva il Barbera e non cambiava canale. Ma che triste, è così. Con Giovanni Leone. Ma cosa dice? Cosa? Un leone, Pinin, mio nonno. Le nazionali. Ma niente, è Drago. La nazionale è una, poi. Ma sì, ma Alberto, è Drago che ha delle Madeleine. No, niente, la recherche. Ma Tito! Sta bravo, su, è Proust. Ma vedete che interviene anche Tito quando dite queste stramberie? Proust. Vabbè, comunque Giovanni Leone era quello di finalmente sei arrivato su quel trono e tra inchini e baciamano fa il discorso e non parli italiano. Te lo ricordi? Quale l'accento della gente dov'è? Bravo. Tu sei nato. Uno buono. Bellito, ha fatto la canzone dedicata appunto a Giovanni Leone. Vabbè, non piace. Bambino Alberto, in realtà, noi saremo qui in cortina, in realtà per farti così, fa un freddo cane, 2 gradi sotto zero. Per farti l'intervista, però dopo 200 e passa interviste, sinceramente, non sappiamo più cosa chiederti. Quindi stiamo perdendo tempo, stiamo ciurlando con il manico, come si dice. Semplicemente basta ripensare al mio ruolo. Cioè, vi serve uno showman? Cioè, uno tipo completo alla Fiorello? Proviamoci. L'importante è che voi mi scrivete i testi. Sì. Io vado in scena, no? Tu vai in scena. Vabbè. Si prova. Ma non funziona, perché tu sei un personaggio di un altro livello, hai capito? Lo so, adesso è inutile anche che me lo ricordi. Ringrazio. Piuttosto sforziamoci di trovare degli argomenti che possano essere utili ai bambini genitori e ai bambini figli all'ascolto. Allora, io sarò il solito vecchio laico socialista radicale liberale di sempre, ma un po' di sana educazione sessuale a questi bambini. Vogliamo dargli la cappa. Socialista radicale liberale tutti insieme. In un secchio con l'uovo sopra e un po' soprattutto di educazione sessuale. Siamo in Italia, queste cose non funzionano. Ma come no, dai. Dai, l'educazione sessuale. Sì, bambino Alberto, educazione sessuale. Cioè, ma tipo fortune.com? Ma no. Cioè, tipo youporn.com. Ma cosa sta dicendo? Vedi, Drago, ma ci pensa internet a fare quello che vorresti fare tu. I fiori. No, io vorrei semplicemente internet. Che i bambini sapessero vagamente come funziona il loro corpo, il corpo umano, e invece su internet imparano cosa? Ma guarda, su internet vedi proprio in modo chiaro ed esplicativo tutti gli usi del corpo umano. Ho capito. Anche con degli extra, mica male. Ecco, la faccenda degli extra lì. Lì volevo chiedere. Perché quando cerco giocattoli su internet, no? Su Google, giochi, giocattoli, toys. Toys. E lì vengono fuori, si aprono dei siti dove c'è tutta la gente spogliata, adulti, no? Che hanno questi toys in mano, no? Sono toys di vari colori. Ma che cosa sono questi qua? Perché vedi? Perché sono giocattoli. Sì, io voglio sapere. Magari sono l'ultima trovata, no? No, ma non sono per bambini, come vedi, infatti li usano solo gli adulti. Sono cose che poi imparerai a usare o a non usare più avanti. Però possiamo portargliene uno, no? Dai, portatemene uno, sono toys, sono giocattoli, Drago, no? C'hai tutte le forze. Drago, ce l'hai a casa. Come ogni cosa a suo tempo. Ma dai, poi ci gioca con Gildo, fa anche rima. Dai, che giochiamo in due, no? Dammi il più piccolo che hai. Perché il più piccolo? Così. Così più grandi le tiene lui. È Natale! È Natale! Non è ancora Natale, però è venerdì. Quindi ringraziamo Carmelo Lauricella. Tanti auguri, buon Natale! Natale! Tanti auguri, buon Natale a Laura Faggin. Ciao Laura, auguri. E anche a Tommaso Varvello, a Guido Bertolotti, e naturalmente a Alberto Caserini. Drago sta agitando delle chiavi. Adesso gli do un pugno e tutto questo finisce. Buon Natale. Buon Natale.